Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una giornata nella quale il tema di politica economica principale continua a essere quello del Mezzogiorno, del Sud. C'è stato adesso, è finito da poco, un incontro di Silvio Berlusconi, del Presidente del Consiglio, con alcuni amministratori del Sud, soprattutto della Sicilia, e alcuni deputati del Sud, non con Gianfranco Miccichè, il dissidente al momento, col quale si vedrà invece Silvio Berlusconi a cena. Pare che su questo ci sia uno sblocco. Approfondiremo questo tema in Focus Economia e naturalmente parleremo anche di mercati, perché la giornata oggi è particolarmente positiva. Il FTSE All Share guadagna il 2,4%, il FTSE MIB il 2,56%, e su quest'ultimo listino, considerate, sono solamente due i titoli in negativo e parecchi quelli che superano i 3 punti percentuali di guadagno. Di questo parleremo anche di trasporto aereo e in particolare di Alitalia. Adesso, prima di tutto, come sempre, le notizie in breve di questa giornata. Iniziando come sempre dal petrolio. Il petrolio che ieri avevamo visto in ribasso a New York, aperto a $64.70 al barile, un rialzo in questo caso del 2,1%. E però tutto questo, naturalmente, i cali degli ultimi mesi del prezzo del greggio hanno pesato parecchio sulle compagnie petrolifere. Il greggio è sceso del 45% negli ultimi 12 mesi. Ebbene, Shell, Royal Dutch Shell, che è la prima compagnia petrolifera europea, ha fatto segnare un calo dell'utile del 67% in questi primi 6 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Stesso risultato, curiosamente praticamente uguale, un meno 66%, per Exxon, altra compagnia petrolifera. E non sono andate meglio le cose nel settore dell'auto. Volkswagen ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in calo dell'83% a 283 milioni di euro. L'utile trimestrale, a quanto pare, è risultato comunque superiore alle previsioni degli analisti. Male anche Renault, un semestre in rosso per 2,71 miliardi di euro, insomma un calo notevole, vendite in calo del 24%. E a testimonianza, insomma, delle difficoltà delle case automobilistiche, naturalmente c'è anche la notizia arrivata ieri che il presidente del consiglio di amministrazione di BMW, Norbert Reithofer, ha confermato che la casa automobilistica tedesca abbandonerà la Formula 1 al termine di questa stagione. E anche dal Giappone non arrivano notizie buone su questo fronte. In scia la crisi economica globale, la produzione domestica di vetture in Giappone, insomma la produzione che avviene in Giappone, è calata del 45,2% nel primo semestre del 2009, mentre nello stesso periodo le esportazioni sono precipitate del 59,1%. E continuiamo con la scia delle notizie negative, perché le cose non vanno meglio nemmeno in un altro settore del trasporto, ossia il trasporto aereo. C'è stato un nuovo calo del traffico internazionale per il mese di giugno, secondo i dati resi noti oggi a Ginevra dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, la IATA. La domanda per il traffico internazionale di passeggeri è scesa del 7,2%. Parleremo anche di questo e parleremo di Alitalia più avanti in Focus Economia. Ecco, qualche segnale di speranza, qualche spiraglio di luce, se vogliamo, arriva dagli Stati Uniti. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale ieri ha detto che forse è l'inizio della fine della recessione, però insomma ci saranno ancora tempi duri. E dati in arrivo oggi dagli Stati Uniti parlano dei sussidi di disoccupazione, che crescono di 25.000 unità, arrivano a quota 584.000. Il risultato è peggiore delle stime degli analisti, che prevedevano un rialzo di 21.000 unità. Scaliamo dagli Stati Uniti, veniamo invece all'Europa. L'Europa giudicata dal Fondo Monetario Internazionale. L'area europea, dice il Fondo Monetario, resta in recessione, e su questo ce lo consentisse il Fondo Monetario Internazionale, l'Istituto di Washington, francamente non avevamo dubbi. Meno 4,8% il PIL nel 2009, meno 0,3% nel 2010. Aggiunge però il Fondo Monetario che se Eurolandia resta in recessione, ci sono segni di miglioramento rallentamento dell'attività economica che ancora non si sono evoluti in una ripresa. Ci sono poi raccomandazioni dal Fondo Monetario, insomma la ripresa economica dell'area euro sarà lenta e soggetta a considerevoli rischi e c'è la necessità di ulteriori azioni, soprattutto nel settore finanziario. Il Fondo Monetario poi parla anche di pressioni disinflazionistiche, insomma vi abbiamo dato ieri la notizia che l'inflazione tedesca è scesa dello 0,6% nell'ultimo mese, di questi rischi della pressione del rischio della, sul fronte inflazionistico parla appunto il Fondo Monetario, dice è essenziale che la Banca Centrale Europea mantenga comandante la propria politica monetaria fino a quando persisteranno tali pressioni. Arrivano notizie anche per quel che riguarda il risparmio delle famiglie e il calo degli investimenti. Questa volta invece le diffonde Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo. Misura il tasso di risparmio che tocca un record, raggiunge quota 15,6% contro il 14,9% registrato nell'ultimo trimestre del 2008. Parliamo chiaramente del primo trimestre. Anche sul fronte degli investimenti si registra l'andamento parallelo e contrario. Sì, il tasso di investimento delle famiglie calcolato da Eurostat è sceso dal 9,8% dell'ultimo trimestre 2008 al 9,3% del periodo gennaio-marzo, il livello più basso dal 1999. Notizie anche dall'economia reale italiana, insomma notizie che arrivano dall'Istat che tra l'altro oggi ha diffuso anche dei dati interessanti sul fronte della povertà, ne parleremo più avanti, ma intanto vediamo quelli sulle retribuzioni e sull'occupazione delle grandi imprese. Allora, le retribuzioni contrattuali a giugno sono cresciute dello 0,1% su base mensile e del 2,8% su base annua, mentre non si ferma la caduta dell'occupazione nelle grandi imprese. Parliamo di maggio, naturalmente, dove la diminuzione è pari allo 0,3% su base congiunturale e del 4,2% rispetto all'anno precedente. Ma particolarmente pesante è il dato che riguarda la sola componente industriale dei dati Istat. La discesa è di quasi il 10%, meno 9,8% in maggio 2009 rispetto allo stesso mese del 2008, il dato peggiore dal 2001. Per quanto riguarda invece la politica economica, adesso verremo alla questione mezzogiorno, ci sono un paio di rilievi da segnalare che arrivano dal Senato, ossia dalla relazione tecnica sul cosiddetto decreto anticrisi. Come segnalato dalla Corte dei Conti, ne abbiamo parlato ieri, se ci avete ascoltato, col direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, la Corte dei Conti diceva che l'approvazione dello scudo fiscale potrebbe vanificare la lotta all'evasione o comunque renderla in qualche misura più difficile. Ebbene, questa è un'osservazione che i tecnici del Senato, del Servizio Bilancio del Senato, fanno sostanzialmente propria. Insomma, gli effetti di deterrenza delle misure anti-evasione rischierebbero di essere vanificati. Poi, sempre per quanto riguarda i tecnici del Senato e sempre per quanto riguarda il decreto, dicono che la copertura del decreto anticrisi, che deriverebbe dalla tassazione delle riserve auree di Banca Italia, delle quali tanto si è discusso e sulle quali si sono appuntate anche le critiche della Banca Centrale Europea, è di dubbia validità. Inoltre la norma potrebbe generare contenziosi con altri soggetti. Questi i tecnici del Senato sul decreto anticrisi. E veniamo al primo argomento di giornata. Il primo argomento di giornata è naturalmente il piano per il Sud. Come avrete letto dai quotidiani oggi, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha dato delle assicurazioni abbastanza chiare. Insomma, ha intenzione di stanziare 4 miliardi, quantomeno per la Sicilia. Insomma, è la Sicilia in cima alla lista delle priorità. Sì, se ne discuterà naturalmente domani nel Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri che, tra l'altro, lo ricordiamo, dovrebbe anche approvare qualche modifica, un decreto legge che modifica il decreto anticrisi, anche se su queste modifiche pare che ci sia qualche perplessità. Insomma, è incerto se venga approvato domani o in un prossimo Consiglio dei Ministri. Comunque sono, lo abbiamo già accennato ieri, delle modifiche tutto sommato marginali rispetto all'impianto generale del decreto. Oggi il Presidente del Consiglio, dicevamo, ha incontrato il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e una nutrita delegazione di parlamentari e amministratori locali siciliani, il Sindaco di Palermo Diego Cammarata, giornata, quello di Trapani Mimmo Fazio, Carlo Vizzini, il senatore Domenico Nania, e poi è andato all'Aquila. Era prevista una cena con Gianfranco Micichè, il dissidente, insomma l'uomo che più si è battuto su questo tema dei fondi per il Mezzogiorno, e però appunto essendo Silvio Berlusconi all'Aquila, insomma non sappiamo se questa cena è confermata oppure no. Allora, iniziamo per entrare in clima a sentire un paio di valutazioni politiche sulla vicenda, perché poi la vicenda è anche ed eminentemente politica, anche se di quattrini veri poi si parla. Sentiamo innanzitutto il parere del senatore del Popolo delle Libertà Gaetano Quagliariello, raccolto da Vincenzo Miglietta. La ripresa economica dell'Italia deve puntare laddove i margini di sviluppo sono maggiori. Per questo il Sud è un problema nazionale. E se non viene considerato così, finisce sotto un cumulo di immondizie, come è successo nella Campania governata dalla sinistra. E sempre per restare in tema di politica, adesso appunto subito dopo arriveremo ai soldi veri, sentiamo anche il parere dell'opposizione come dovuto, anche se è una questione molto interna alla maggioranza. Soro, Antonello Soro, presidente dei deputati del Partito Democratico. Penso che Berlusconi non possa imbrogliare più nessuno, perché non si può fare oggi una legge con la quale si tolgono i soldi al Mezzogiorno e domani una conferenza stampa che dovrebbe rassicurare tutti. La verità è che il governo ha fallito malamente sulle politiche che tengono insieme il Paese e sotto schiaffo della Lega il governo divide l'Italia. Questo era Antonello Soro del Partito Democratico, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, iniziamo a fare il punto su questi soldi, sui soldi appunto per il Mezzogiorno. E facciamo il punto con una scheda, poi ne parleremo più approfonditamente. Dal 2003 il Fondo per le aree sottoutilizzate, il cosiddetto FAS, è lo strumento con cui il nostro Paese cerca di attenuare le differenze economico-sociali tra le diverse aree del Paese. Ogni anno la legge finanziaria indica le risorse da destinare al Fondo, mentre il CIPE, ossia il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, provvede poi all'effettivo stanziamento. Le risorse del FAS vengono poi divise più o meno a metà. Una parte è infatti attribuita ad un fondo nazionale che per l'85% dovrebbe poi essere utilizzato a favore del Mezzogiorno. L'altra parte viene invece attribuita al fondo per il finanziamento dei singoli programmi regionali. Ma di quali cifre stiamo parlando? A inizio 2007 la dotazione FAS per il periodo 2007-2013 ammontava a circa 65 miliardi di euro. 13 miliardi sono stati però via via utilizzati dal governo per la copertura di interventi legislativi di varia natura, a cominciare dal taglio ICI, e altri 7 miliardi sono confluiti nel Fondo per le Infrastrutture. A marzo 2009 il Fondo FAS poteva così contare su una dotazione di 45 miliardi di euro. CIPE, Ministero dell'Economia e Conferenza della Regione hanno poi ridefinito la distribuzione. 18 miliardi sono stati attribuiti al Fondo Nazionale e da qui destinati a rafforzare gli ammortizzatori sociali, a rimpinguare il Fondo Infrastrutture, ad alimentare il Fondo di Garanzia per le PMI e a finanziare gli interventi di ricostruzione in Abruzzo. Gli altri 27 miliardi sono invece finiti al Fondo per i programmi regionali. In particolare, 22 miliardi serviranno per finanziare i piani delle regioni del Mezzogiorno, mentre 5 miliardi finiranno alle regioni del Centro-Nord. Questo è il quadro di una materia in realtà piuttosto complicata, che è quella dei fondi per le aree sottoutilizzate. Buonasera a Fabio Pammoli, al professor Fabio Pammoli, direttore del Centro di Ricerche CERM. Buonasera. Intanto dico a chi ci scrive al 349-238-6666 chiedendo di trimestrali, delle semestrali di Eni ed Enel che non sono ancora uscite, che comunque naturalmente dovrete attendere un attimo, ne parleremo naturalmente nello spazio di borsa. Allora, Pammoli, la questione mi sembra chiaramente e fortemente politica, è una cosa che stiamo dicendo già da ieri. Da una parte ci sono degli amministratori del Sud e dei politici del Sud che probabilmente anche a ragione. Reclamano il fatto che i fondi per le aree sottoutilizzate spettano prevalentemente al Mezzogiorno, appunto. Dall'altra parte, però, c'è probabilmente una classe politica meridionale anche che i soldi, le decine di miliardi di fondi pubblici dati nel corso degli anni, non ha saputo sfruttarli a dovere, o no? Guardi, qui noi abbiamo davanti un problema che è pre-unitario, quindi lì da prima dell'Unità d'Italia, che è il problema di un differenziale di crescita e di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno che è rimasto persistentemente ad accompagnare tutta la storia della Repubblica fino ai giorni nostri. Nel 1998 si pensò di dare una svolta significativa con un evento a Catania che vide la partecipazione dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e fu l'annuncio, quindi 10 anni fa, di una nuova stagione, la stagione della nuova programmazione regionale, che avrebbe dovuto accompagnare un processo di accelerazione della crescita del Mezzogiorno e di canalizzazione di risorse che si è realizzato negli ultimi 10 anni verso il Mezzogiorno per stimolare la convergenza. È interessante guardare la differenza stridente tra i documenti previsionali che esercizio dopo esercizio hanno accompagnato gli stanziamenti previsionali in termini di effetti di quelle allocazioni sulla crescita che si sarebbe dovuta innescare nel Mezzogiorno e la realtà. La realtà ci consegna oggi, dopo 10 anni, un differenziale di PIL pro capite tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord che si è ridotto di 1,5 punti, quindi è passato dal 56,5% a circa il 58% il reddito pro capite medio del Mezzogiorno rispetto a quello del Centro-Nord. Che è una crescita minima. Che è una crescita minima, sicuramente non tale da determinare un processo di convergenza e soprattutto se confrontiamo con gli stanziamenti effettuati e con il fatto che nel frattempo c'è un rallentamento della crescita nel Centro-Nord, segnala un problema strutturale. Allora, da questo punto di vista ci sono alcuni aspetti. È chiaro che non si poteva continuare, almeno a un'analisi tecnica neutrale, credo sia chiaro che non si potesse continuare a riversare rivoli di denaro pubblico prevalentemente improduttivi, cioè si partiva con l'idea di finanziare dorsali e infrastrutture e si è finiti con il finanziare piazze o arredi urbani in singole città, proprio anche per problemi di carattere amministrativo, giuridico, regolamentare. Allora, da questo punto di vista, l'idea di sospendere un secondo l'allocazione di denaro pubblico e di vincolarla a investimenti in infrastrutture realmente in grado di facilitare poi lo sviluppo economico del Mezzogiorno pare sacrosanta dopo un decennio di fallimento dell'azione pubblica basata su presupposti diversi. Se poi si vuole ridurre la questione a una questione, come dire, semi-elettorale o di preparazione di future scadenze elettorali, lo si può sempre fare. Ma qui stiamo veramente discutendo di un problema che è al cuore dello sviluppo economico di tutto il paese. Professor Pamolli, l'impressione generale che permane è che per il Mezzogiorno storicamente e anche negli ultimi anni sia mancata una vera e propria strategia. E abbiamo degli esempi internazionali, se vogliamo, anche nella nostra Europa, insomma, abbastanza vicini a noi, di aree sottosviluppate che sono state riportate alla crescita con una certa efficacia. Penso naturalmente alla Germania dell'Est, che è il primo esempio che mi viene in mente, ma anche l'Andalusia, tanto per farne un altro, insomma, che ha utilizzato i fondi europei in maniera molto efficace per tirarsi fuori dalle peste economiche. Certamente, tre aspetti da questo punto di vista, più un quarto che fa da sfondo. Il primo aspetto è la rilevanza degli investimenti in infrastrutture sui fondi europei. Se noi guardiamo quello che è accaduto agli indici di produttività delle regioni che sono state beneficiarie nel corso degli ultimi 15 anni di interventi per area obiettivo 1 e quindi tutti gli interventi, diciamo, per le aree sottosviluppate, vediamo che il grosso problema dell'Italia è che non ha trasformato gli stanziamenti europei in aumenti della produttività. Primo elemento. Secondo elemento, i lender tedeschi. Abbiamo avuto a febbraio la firma di un nuovo protocollo sulla contrattazione del costo del lavoro. È chiaro che noi abbiamo una situazione in cui, se lei compara il costo del lavoro in Baden-Württemberg con quello in Turingia, ha differenze dell'80% e quindi giustifica poi delle localizzazioni in aree depresse come quelle dei Länder orientali, anche sulla base di una maggiore flessibilità sul costo del lavoro, naturalmente su base negoziale. In Italia questo è mancato. Adesso, dal punto di vista normativo e di quadro complessivo, questa possibilità c'è, vediamo se verrà utilizzata. Ultimo elemento è che è legato al fatto che alcune aree dell'Europa hanno utilizzato la leva della fiscalità di favore in modo tale da attrarre investimenti dall'estero. Il quarto punto di sfondo è quello che deve finire, lo vedo ad esempio con riferimento a tutto il capitolo della spesa sanitaria. Deve terminare una stagione nella quale si è pensato che i vincoli di finanza pubblica siano vincoli di bilancio cosiddetti soffici, cioè che si definiscono ma poi sono definiti per essere violati. Adesso di finanza pubblica non ce lo consente più e si deve uscire da una logica, ahimè, non voglio che nessuno se ne abbia male, ma da una logica assistenziale. Logica assistenziale non c'è più. Perché poi, professor Pamolli, e lei citava giustamente l'esempio della sanità, veniamo da una settimana nella quale sono state giusto appunto commissariate sul fronte sanitario due regioni meridionali, quindi il problema è anche quello, e quindi c'è oggettivamente, a sua opinione, un problema di amministrazione, un banale problema di amministrazione? Un problema di amministrazione, c'è un problema storico che riguarda anche tutto il sistema dell'istruzione, quindi pezzi importanti della pubblica amministrazione, della macchina dello Stato nel giorno, che è stata sovraccaricata di funzioni improprie. Perché è stata la macchina stessa al suo interno della pubblica amministrazione che ha dovuto svolgere funzioni di volta in volta di ammortizzatore sociale, dilatando i posti disponibili rispetto alle reali esigenze, oppure dilatando, ad esempio come nel caso delle università, il numero delle sedi per realizzare anche lì obiettivi di perequazione. Io credo che questa stagione del sovraccarico di pezzi della pubblica amministrazione, di funzioni che non sono proprie rispetto alla gestione della cosa pubblica, sia un'esperienza che storicamente può avere anche svolto una sua funzione e che oggi, se non altro per ragioni di bilancio e di produttività dell'investimento, debba essere considerata come superata. Quando vedo che si torna a dire ma abbiamo bisogno di più denari per la sanità, io invito a guardare la situazione delle entrate, la situazione del debito pubblico e la situazione dei livelli di avanzo primario che prima o poi siamo chiamati a tornare ad esprimere, prima di avanzare richieste che palesemente non hanno una copertura finanziaria nel bilancio dello Stato. Giusto per riassumere, professor Pamolli, ci sembra di capire che lei dica che per il Mezzogiorno quello che serve è un mix di politiche di erogazione, di controllo di queste erogazioni, di bilancio e di politiche fiscali per favorire gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. Insomma, sembrano quasi banalità, però finora è stato fatto assai poco. Sono banalità, ma purtroppo finora si è seguita una strategia diversa, che è stata una strategia di sussidio e che è stata una strategia che è stata sbilanciata integralmente sul lato appunto del push, dal lato delle risorse immesse. Questa logica, se accompagnata a questa nuova logica, come lo sarà, con una forte responsabilizzazione che deriva anche dal nuovo assetto istituzionale che l'Italia si sta dando, secondo me è l'unica possibile strada per avere un'attenuazione del divario del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. E grazie al professor Fabio Pammolli, direttore del Centro Ricerche CERME, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. E poi, a chi ci dice che il problema principale del Mezzogiorno è la criminalità, è certo che c'è il problema della criminalità, ma la criminalità, non lo dico io, ma lo dicono autorevoli esperti, si combatte da una parte, certo, con azioni di polizia, come ci dice un ascoltatore, ma dall'altra parte si combatte anche molto semplicemente con lo sviluppo. E siamo naturalmente all'appuntamento con la borsa. Paolo Paronetto di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, un'altra ottima giornata, insomma, il FTSE All Share un più 2,47%, il FTSE MIB un più 2,63%, mi sembra che decisamente in queste settimane le cose stiano andando bene, no? Sì, certamente, anche oggi una giornata decisamente positiva dopo già quella di ieri, e anche oggi è stata una giornata caratterizzata soprattutto dall'attesa e dall'analisi dei conti trimestrali di molte società quotate, conti che continuano a essere tutto sommato complessivamente positivi sia in Europa che negli Stati Uniti, e che quindi orientano tutto il mercato in cui prevalgono gli ordini di acquisto, dato che questa serie di conti trimestrali ovviamente lascia ben sperare sull'andamento generale dell'economia, insieme anche a indicatori macroeconomici che, come quello proveniente oggi dagli Stati Uniti sulle richieste di disoccupazione che sono risultate di sussidi di disoccupazione che sono risultati migliori delle attese, che contribuiscono anche che si orientava tutto il mercato in positivo. Un quadro generale su come stanno andando gli indici: il CAC 40 a Parigi guadagna il 2,28%, l'Italia abbiamo già detto, il Dow Jones negli Stati Uniti l'1,69%, il Nasdaq l'1,53%, arrivando sopra quota 2000 punti, quindi una soglia piuttosto importante. Adesso è sceso appena sotto, ma insomma siamo là. Venendo ai singoli titoli, Paolo, per l'ascoltatore che ci chiedeva prima notizia su Eni ed Enel, non sono ancora arrivate le semestrali, naturalmente appena arrivassero ve le daremo. Vedo in grande spolvero Pirelli. Sì, esatto, Pirelli fin dall'avvio è stata la protagonista della seduta tra le blue chip milanesi, adesso sta guadagnando il 6,92%, è arrivata a guadagnare anche oltre il 7%, e qui il motivo è proprio nella trimestrale che è stata annunciata ieri a mercato chiuso. A piacere è stato soprattutto il calo dell'indebitamento, che ha permesso a Pirelli di migliorare gli obiettivi per la fine dell'anno. Se infatti prima il gruppo prevedeva di avere un indebitamento di circa 1 miliardo, ha abbassato questa stima, cioè ha migliorato questa stima, e oggi prevede un indebitamento a fine anno di circa 800 milioni di euro. E in seguito ai conti, molte banche d'affari hanno migliorato sia gli obiettivi di prezzo che il giudizio sul titolo, consigliando di comprare il titolo Pirelli, e quindi Pirelli oggi è stata protagonista di tutta la seduta, chiudendo a oltre 0,29 euro. Bene le costruzioni, da quel che vedo, Italcementi un più 6,04%, in pregilo più 5,86%, è stata una tendenza del settore oggi, Paolo? Sì, esattamente, tutto il settore, sia in Europa dove a livello di sottoindice ha guadagnato il 2,7%, ma anche negli Stati Uniti dove un colosso come Caterpillar guadagna oltre il 3%, ovviamente il settore costruzioni, come diciamo spesso, è uno dei più ciclici, più legati all'andamento dell'economia, in una giornata come questa, che è stata, ricordiamo, anche confortata dalle stime della Fed rese note ieri sera, in cui si parla di un primi segnale di stabilizzazione dell'economia statunitense. Ovviamente il comparto costruzioni beneficia di questa tendenza generale, e oggi per il pregiro in particolare siamo arrivati ai massimi dallo scorso ottobre, quindi una seduta decisamente positiva. Italcementi ha guadagnato oltre il 6 e in pregiro appena sotto il 5,86%. Positive anche tutte le banche, mi sembra una tendenza di questi giorni, insomma Intesa San Paolo un più 5,12%, Unicredit un più 3,49%, UbiBanca un più 3,16%, la Popolare di Milano un più 3,09%, è dovuto, Paolo, dall'aria che hai respirato tra gli analisti, che ad un miglioramento complessivo, ad una visione complessiva di miglioramento dell'economia? esattamente dell'economia e anche dei conti delle stesse banche, che ovviamente le due cose sono legate a doppio filo. A livello europeo proprio il sottoindice delle banche ha guadagnato oltre il 3%, e sul settore finanziario possiamo segnalare che oggi è arrivata anche un giudizio che riguarda il colosso statunitense General Electric, che a Wall Street guadagna il 7,7% grazie a un giudizio di Goldman Sachs. Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione a buy, consigliando cioè di comprare, dato che ritiene che il colosso americano non sarà più obbligato a scorporare la propria divisione proprio di servizi finanziari, dato che le condizioni del mercato finanziario stanno migliorando, e quindi anche per la stessa divisione di General Electric le cose potranno andare meglio. Notizia ovviamente positiva per tutto il comparto finanziario, che oggi è stato comprato anche in tutta Europa. Bene anche Mondadori dopo la semestrale, un più 3,48%, tra i titoli positivi Unipol più 3,44%, Tenaris più 3,39%, Telecom Italia più 3,22%, Luxottica ancora bene più 2,92%, Alleanza più 2,78%, Buzzi più 2,64%, positiva Eni più 2,61%, Generali più 2,39%, A2A più 2,38%, Enel più 2,11%. C'è un titolo che però oggi praticamente per tutta la giornata non è stato trattato, Paolo, ed è Viaggi del Ventaglio, no? Sì, esattamente. Viaggi del Ventaglio è stata sospesa dalle contrattazioni in attesa di comunicato, i titoli sono stati sospesi, quindi non hanno praticamente scambiato. Aspettiamo notizie sui motivi che hanno portato a questa sospensione. Al momento non sono ancora arrivati, vedremo nei prossimi minuti. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori Il Sole 24 Ore, per averci aiutato ad interpretare questa giornata borsistica. Io vi segnalo solamente gli unici due titoli in negativo sul FTSE MIB, e sono Parmalat in calo dell'1,62% e Prysmian dello 0,83%. Saluto intanto Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera. Buonasera. Perché ci siamo collegati con Mario Platero? Perché ieri sono arrivate delle parole importanti dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. In realtà non è la prima volta che Obama parla di una sorta di uscita dalla crisi, insomma di qualche spiraglio di luce che si intravede. Ebbene, sentiamo che cosa ha detto. We have stopped the free fall. The market's up and the finance... Non siamo più in caduta libera. Il mercato sta migliorando e il sistema finanziario non è più sull'orlo del collasso. Il ritmo con cui stiamo perdendo posti di lavoro si è dimezzato rispetto a quando ho assunto l'incarico 6 mesi fa. I prezzi delle case sono saliti per la prima volta in 3 anni. Non c'è alcun dubbio che le cose vadano meglio. Forse cominciamo a vedere l'inizio della fine della recessione. Ma questo è di poco conforto per chi ha perso il lavoro e non riesce a trovarne un altro. Sappiamo che i tempi difficili non sono finiti, ma sappiamo anche che senza le azioni intraprese la nostra economia starebbe ancora peggio. Quando la mia amministrazione ha cominciato il mandato 6 mesi fa, stavamo affrontando la peggiore situazione economica della nostra vita. Perdevamo in media 700.000 posti di lavoro al mese e gli economisti temevano una seconda grande depressione. Riguardo le banche, so che può sembrare non corretto a molti americani che soldi dei contribuenti siano stati utilizzati per aiutare banche che si erano esposte a rischi eccessivi. Neanche a me è sembrato giusto, ma il salvataggio delle banche, iniziato con la precedente amministrazione, era necessario perché sbloccando i mercati del credito abbiamo aiutato a far sì che la recessione non divenisse depressione. Abbiamo anche adottato azioni per aiutare l'industria automobilistica a emergere da una crisi che lei stessa aveva creato. Questa era una buona ragione per lasciare fallire General Motors e Chrysler, e so che molti la pensano così. Ma nel mezzo della recessione, il loro collasso sarebbe stato una catastrofe per l'economia. Abbiamo salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro e ci aspettiamo di riavere i nostri soldi indietro. Ed era la voce di Barack Obama. Questo si può accostare a quello che è uscito ieri con il Beige Book, che è il tradizionale libro, chiamiamolo così, le tradizionali indicazioni della Federal Reserve, la banca centrale americana, sull'andamento dell'economia, che parla di moderata ripresa dell'industria tra 6 e 12 mesi e dice che la crisi economica si è attenuata in molti distretti. Allora Mario, l'impressione è che la fiducia stia tornando negli Stati Uniti. Beh, direi che il fatto che abbiate trasmesso in diretta le parole di Obama forse chiarisce meglio quello che dai titoli di questa mattina di alcuni nostri giornali poteva essere confuso come direi forse qualche cosa di più ottimistico. Obama ha già detto che la situazione critica dell'economia andava stabilizzandosi, ieri lo ha confermato, è diverso dire questo dal dire che forse stiamo girando la boa e stiamo tornando alla ripresa. Dico questo perché il settimanale Newsweek ha pubblicato una copertina con un leggerissimo palloncino celeste che si alza verso il cielo, che dice fine della recessione, che quindi dà l'idea che le cose stanno tornando alla totale normalità. Questo con le parole ottimiste di Obama può essere stato confuso, ma credo che ci sia una frase ancora più importante, quella di Larry Summers, che è il consigliere, il principale consigliere economico di Barack Obama, che rende un po' l'idea. Summers, che ha parlato appena 10 giorni fa, ha detto, appena alcuni mesi fa, cioè a febbraio, eravamo sull'orlo del baratro, oggi siamo lontani dal baratro. Questo non significa che l'America non continui ad essere in recessione. Ieri appunto il rapporto della Federal Reserve dà qualche segnale ottimistico sull'industria, ma continuiamo ad essere in una situazione negativa. Domani avremo il dato sul prodotto interno lordo americano, l'idea e che ci sia un dato migliore di quelli che abbiamo avuto in passato, addirittura meno 5% nel tasso di crescita, ma saremo ancora in territorio negativo, gli economisti si aspettano un meno 1,5%. Dunque è una situazione migliore, non siamo più in quella situazione critica in cui sembrava che avessimo la paralisi totale, in cui i mercati erano in caduta libera, ma siamo in una situazione ancora di prudenza, anche perché ci si rende conto che uscendo da una crisi di questo genere non è detto che poi il ritmo della crescita possa essere talmente elevato da recuperare tutto quello di negativo che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 trimestri. Bene Mario, quindi attenderemo naturalmente domani il dato sul PIL per capire un attimo come girano le cose e vedremo se gli analisti hanno torto o ragione. Grazie Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buonasera. Grazie. E saluto Rocco Sabelli, amministratore delegato della Nuova Alitalia. Buonasera. Buonasera a lei. Bisogna dire che il quadro non è per nulla confortante, già nelle nostre headlines ve lo dicevamo, nei nostri titoli ve lo dicevamo, perché la IATA, che è l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, parla di un calo dei passeggeri del 7,2% in giugno rispetto allo stesso mese del 2008, mentre la domanda cargo ha registrato una diminuzione del 16,5%. In questo quadro Alitalia ha presentato ieri la sua semestrale, una semestrale che vede il risultato operativo netto del semestre in calo di negativo per 279 milioni di euro. E di questo appunto parliamo con Rocco Sabelli, amministratore delegato di Alitalia. Innanzitutto Sabelli, un banale commento sui dati: mi sembra che possiamo differenziare molto tra il primo trimestre e il secondo trimestre, no? Sì, diciamo che l'elemento, se vuole, incoraggiante nel quadro che lei ha bene descritto, quello di mercato, è esattamente questo trend per noi è importante, perché a un primo trimestre coinciso con l'avvio della compagnia, con la fase di start-up, con la integrazione con Air One, che ha bruciato la gran parte di questo risultato, quasi 210 milioni di euro, è seguito un secondo trimestre con una riduzione importante delle perdite e anche del fabbisogno di cassa. Nel secondo trimestre, lei ha visto, abbiamo avuto un risultato di soli 63 milioni di euro, questo ci fa sperare bene anche per il terzo trimestre, che notoriamente è un trimestre di stagionalità positiva, quindi in cui c'è crescita dei passeggeri, delle quote di mercato, dei tassi di riempimento degli aerei, quindi sotto questo profilo un percorso che ci lascia abbastanza fiduciosi. Questo anche dalle parole che abbiamo visto ieri del presidente Colaninno sembrano indicarlo anche i dati sulle prenotazioni di agosto e settembre, no? Sì, abbiamo un portafoglio per i prossimi tre mesi in particolare, naturalmente abbiamo già prenotazioni che vanno verso la fine dell'anno e i primi dell'anno prossimo, come capita, ma quello dei prossimi tre mesi è particolarmente interessante, soprattutto se le componenti di lunga distanza, intercontinentali, internazionali, ed è questo che ci fa dire che non solo il mese di luglio sarà un buon mese, come di fatto è, ma anche l'intero terzo trimestre, che quindi ci permetta di realizzare un ulteriore progresso. Io non escludo, e tutti stiamo lavorando per quello, di poter avere un risultato di break even per questo trimestre. C'è una questione che citava già lei, ossia il cosiddetto tasso di riempimento, che è un elemento importantissimo per una compagnia aerea. Insomma, quanto si riescono a riempire gli aerei? Il tasso di riempimento di Alitalia nel primo semestre è stato del 70%, con un obiettivo dell'80%, e ampiamente al di sotto, Sabelli, della media delle altre compagnie. Immagino non vi conforti questo dato. Ma dunque, probabilmente lei si riferisce con questi dati più ai tassi di puntualità. In realtà... Pardon, mi scusi, il 65% sì, è il tasso di riempimento. Sì, scusi. Il tasso di riempimento dei nostri aerei ha avuto questa buona performance in questi sei mesi, perché noi siamo partiti praticamente i primi di gennaio con tassi di riempimento al di sotto del 50%, abbiamo raggiunto quasi il 67-68% in giugno, e nel mese di luglio, che ormai è terminato, viaggiamo su tassi del 72-73%. Ecco, questo è un numero che ha un significato particolare per noi, perché i tassi di break even, quindi di pareggio dei nostri conti, sono oggi notevolmente più bassi di un anno fa e di molte altre compagnie mondiali, perché abbiamo realizzato quella operazione di efficienza sui costi che ci permette di avere break even e profitto anche a tassi di riempimento tradizionalmente più bassi. E però gli obiettivi non sono questi, comunque, no? Il nostro obiettivo, se vogliamo prendere i nostri obiettivi, i primi sei mesi noi abbiamo avuto questo tasso di riempimento medio intorno al 59%, cioè 2 o 3 punti in più dei nostri obiettivi. Noi strutturalmente facciamo break even al 70%, il break even della compagnia è previsto nel 2011, cosa che abbiamo riconfermato nel CDA di ieri, quindi vuol dire che il nostro obiettivo medio di riempimento del 70% è un obiettivo a 3 anni, naturalmente con punte stagionali come quelle che stiamo avendo, anche superiori. E verrei, Sabelli, adesso alla questione che ho ai numeri che ho erroneamente citato prima, e che riguardavano in realtà la puntualità e non il riempimento. A volte, insomma, con le percentuali può capitare di confondersi un pochino. Diciamo puntualità al 70%, dove l'obiettivo è 80%, e qualche problema in particolare ci sembra di capire sull'aeroporto di Fiumicino. Risolvibile? Come lo state risolvendo? Allora, non c'è dubbio, noi siamo ancora sotto gli obiettivi che noi stessi ci siamo dati, che sono un po' le medie europee. I problemi a Fiumicino ci sono, lo abbiamo detto, se ne stanno accorgendo tutti i passeggeri che passano da Fiumicino. È un problema purtroppo storico, tradizionale e ricorrente. Domani, nel prossimo weekend, a Fiumicino passeranno 360.000 passeggeri, un po' meno della metà sono nostri. È un aeroporto che strutturalmente non è attrezzato per punte di questo genere. Quello che noi stiamo facendo, noi e in gran parte e in parte l'aeroporto di Aeroporti di Roma, è di adottare misure, di breve termine per attenuare i problemi di questi weekend, cosa che negli ultimi 1 o 2 settimane si sta riuscendo bene, potenziando squadre, aggiungendo, semplificando processi. In realtà le soluzioni più strutturali richiederanno 6 mesi, 12 mesi, un anno e mezzo, perché si tratta di dare un assetto più razionale all'aeroporto, concentrare tutti i voli di Alitalia in un unico terminal. Questo è l'accordo che abbiamo sottoscritto due settimane fa con Aeroporti di Roma. Si sta lavorando nella direzione giusta, ci sono le condizioni per far diventare Fiumicino un aeroporto importante non solo per volumi dei passeggeri ma anche per livello di servizio. L'ultima domanda, per tornare alle questioni che riguardano il bilancio, c'è una questione che è stata sollevata nei giorni scorsi più di una volta dal Sole 24 Ore ed è la questione di come il budget è stato fatto. In sostanza voi avete detto i nostri risultati sono in linea con il budget e però, dice il Sole 24 Ore, questo budget è stato fatto con stimando un prezzo del petrolio a livelli che adesso non si pensava che si raggiungessero e quindi è un budget che incamerava un prezzo del petrolio, mettiamo a $100 al barile, quando adesso stiamo insomma intorno ai 65. Come rispondete a questa osservazione? No, semplicemente che non è così, perché noi abbiamo approvato il nostro budget, forse si fa confusione col piano industriale che era di un anno fa, noi abbiamo, quando il petrolio era a $140, noi abbiamo approvato il nostro budget il 28 di febbraio del 2009, allora il costo del petrolio era forse a meno di $50 a barile e quindi è un budget che incorpora uno scenario di petrolio non molto dissimile da quello che oggi abbiamo. Se però si volesse, perché capisco, i budget sono sempre cose soggettive, se si volesse un confronto sulla nostra performance, forse il dato che oggi Lufthansa ha rilasciato sulla propria semestrale nel primo semestre del 2009 con una perdita di 216 milioni di euro, forse dà la misura anche relativa e che quindi prescinda da nostre valutazioni soggettive in termini di costruzione del budget. Grazie anche per questa risposta a Rocco Sabelli, amministratore delegato di Alitalia, e buona giornata, grazie per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera, dunque noi chiudiamo, abbiamo aperto parlando di Sud e chiudiamo parlando anche di Sud, parlando dei dati che ha fornito l'Istat sulla povertà. L'Istat parla di oltre 8 milioni di poveri in Italia, appunto soprattutto nel Mezzogiorno, dove risiedono dove risiede il 23,8% dei poveri. Su questo il nostro Andrea Viali ha intervistato Linda Laura Sabbadini, che è direttore centrale dell'Istat. Allora, intanto dobbiamo distinguere tra la povertà relativa e la povertà assoluta. Partiamo dalla povertà assoluta. Come si sa, la povertà assoluta è una misura che ci permette di valutare quante sono le famiglie che non riescono a spendere, diciamo, quella cifra che serve per garantire una vita così dignitosa, cosiddetta dignitosa. E, in sostanza, quello che è successo è che siamo al 4,6 delle famiglie che stanno in questa condizione. È peggiorata la situazione per le famiglie del Mezzogiorno di 2 punti percentuali, sono arrivati a più del 7%, è peggiorata la situazione delle famiglie di 4 componenti, in particolare se ci sono 2 bambini o 2 minori, è peggiorata la situazione delle famiglie con a capo persone con meno di 45 anni o con a capo anche un lavoratore autonomo, soprattutto se senza addetti, è peggiorata la situazione di famiglie con a capo un disoccupato, in questo caso l'incremento della povertà assoluta è stato del 50%. Quindi in sostanza quello che è avvenuto da un punto di vista della povertà assoluta è che è peggiorata la situazione delle situazioni più gravi, vedi il caso del Mezzogiorno, ma la povertà assoluta comincia a toccare di più anche dei segmenti che prima non rientravano tra quelli più a rischio, per esempio le famiglie con 2 figli, in particolare con 2 figli minori, che in precedenza non presentavano una povertà assoluta superiore alla media e ora sì. Voi misurate anche la povertà relativa, allora cos'è e qual è il suo andamento? La povertà relativa, a differenza della povertà assoluta, permette di misurare il grado di disuguaglianza del paese e in particolare di misurare la posizione relativa delle famiglie in rapporto a tutte le altre, quindi non è una misura di povertà in senso assoluto, è una misura di povertà in termini relativi in rapporto alle altre. Quello che è emerso sulla povertà relativa è che in termini generali questa è stabile, ma ci sono dei sommovimenti interni anche in questo caso. C'è un miglioramento in particolare per la popolazione anziana, miglioramento che ormai segnaliamo già da vari anni, dovuto anche a fattori generazionali ma non solo, e c'è invece un peggioramento soprattutto in questo caso di tutti quei segmenti che erano quelli che erano più a rischio di povertà e che stavano in una situazione peggiore. Si chiude così questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Da Simone Spezia una buona serata. Focus Economia naturalmente torna domani alle 17. Adesso linea al GR.